Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo dal punto di vista di tutti gli animali, umani e no. È la puntata numero 535 del nostro nono anno di vita. In questa puntata parleremo dello strano compleanno della coscienza ecologista planetaria, di riviste che vanno controcorrente, dell'emergenza coronavirus e del suo legame molto stretto con la questione animale, di piccole buone notizie che arrivano dal mondo dei selvatici. Mercoledì scorso si è celebrata la 50ª giornata mondiale della Terra, ma c'è stato davvero poco da festeggiare. Lanciata nel 1970 negli Stati Uniti, la giornata può essere considerata un punto di avvio del movimento ecologista planetario. Milioni di persone quella volta scesero in piazza in difesa dell'integrità del pianeta, minacciato dall'iperinquinamento e da un uso abnorme e incontrollato delle risorse naturali. È passato mezzo secolo, ma il bilancio ecologico planetario che oggi possiamo fare è piuttosto desolante. Il pianeta è arrivato a questo appuntamento in grave sofferenza, alle prese con una catastrofe climatica che le società umane non riescono ad affrontare e nel pieno dell'emergenza coronavirus. Basti dire che il 2019 in Europa è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature medie di quasi 2 gradi al di sopra di quelle della seconda metà del XIX secolo, e che gli esperti già dicono che il Polo Nord è destinato a restare senza ghiacci in estate, molto prima del previsto 2050, con conseguenze quindi imprevedibili, ma certamente molto gravi, per ampie zone del pianeta. Insomma, siamo di fronte, in verità, a un'enorme sconfitta per la coscienza ecologista che cominciò a diffondersi 50 anni fa. Fu quella una mobilitazione grandiosa, che però non è riuscita, evidentemente, a dirottare il modello di sviluppo occidentale, estrattivista e consumista, che è il vero responsabile della crisi climatica in corso e del drammatico inquinamento dei suoli, delle acque, dell'aria. L'attuale pandemia, col blocco di buona parte delle attività industriali e degli spostamenti delle persone, ha paradossalmente concesso una pausa al pianeta, mettendo però tutti in angoscia. Diciamo che abbiamo una grande occasione per riflettere e per accrescere le nostre conoscenze sul destino collettivo al quale stiamo andando incontro. Jared Diamond, lo studioso autore del famoso libro Armi, Acciaio e Malattie, in un'intervista uscita sull'inserto La lettura del Corriere della Sera, ha fatto notare come anche questo virus, in modo simile a quanto avvenuto altre volte in passato, suscita il meglio e il peggio dell'umanità. Se muoiono abbastanza persone, dice Diamond, forse ci convinceremo che siamo davvero sulla stessa barca, che senza cooperare rischiamo di annegare uno per uno. E tuttavia, aggiungiamo noi, è certamente necessario, prima di immaginare qualsivoglia mossa futura, mettere a fuoco qual è l'origine di questa pandemia e quali sono i rischi che corriamo di ulteriori pandemie, una volta che questa, chissà quando, sarà sconfitta. È una riflessione questa molto meno presente nel dibattito pubblico di quanto sarebbe necessario. L'attenzione è concentrata anche in questi giorni sul presente e sull'immediato futuro, sulla cosiddetta fase 2, ma è troppo poco. Uno sguardo di così breve periodo non è appropriato per la sfida che stiamo vivendo. come scrivono Manuela Monti e Carlo Alberto Redi in un altro intervento, sempre sulla lettura, si tratta di evitare le infezioni, lasciando in pace le altre specie. Ecco il cuore della questione, lo spillover, il passaggio degli agenti patogeni dagli animali selvatici di allevamento all'uomo. Di questo dobbiamo parlare se vogliamo garantirci un futuro di salute, libero quanto più possibile da malattie e infezioni. La spinta potrebbe venire dalle parole di David Quammen, autore del citatissimo ma chissà quanto letto libro Spillover, dedicato alle diffusioni dei virus nelle società moderne. Quammen a un certo punto cita le ultime epidemie. Il libro fu pubblicato nel 2012 e uscito in Italia per l'editore Adelphi 2 anni dopo. E quindi in sequenza Marburg del 67, Lassa nel 69, Ebola nel 76, HIV 1 e 2 fra l'81 e l'86, Sinnombre del 93, Hendra del 94, l'influenza aviaria del 97, Nipah del 98, la febbre del Nilo occidentale del 99, la SARS del 2003, l'influenza suina del 2009. E così commenta. Si potrebbe pensare che questa lista sia una sequenza di eventi tragici ma non correlati, una serie di sfortunate coincidenze che ci hanno colpito per motivi imperscrutabili. Messa così, Mapucho, HIV, SARS sono, in senso sia figurato sia letterale, calamità naturali, dolorosi accidenti alla pari di terremoti, eruzioni vulcaniche e meteoriti, di cui si possono forse minimizzare le conseguenze, ma che rimangono inevitabili. È una posizione passiva e quasi stoica, ed è sbagliata. Che sia chiaro da subito, c'è una correlazione fra queste malattie che saltano fuori una dopo l'altra, e non si tratta di meri accidenti, ma di conseguenze non volute di nostre azioni. Sono lo specchio di due crisi planetarie convergenti, una ecologica e una sanitaria. Sommandosi, le loro conseguenze si mostrano sotto forma di una sequenza di malattie nuove, strane e terribili, che emergono dai ospiti inaspettati e che creano serissime preoccupazioni e timori per il futuro negli scienziati che le studiano. Come fanno questi patogeni a compiere il salto dagli animali agli uomini e perché sembra che ciò avvenga con maggiore frequenza negli ultimi tempi? Per metterla nel modo più piano possibile, perché da un lato la devastazione ambientale causata dalla pressione della nostra specie sta creando nuove occasioni di contatto con i patogeni e dall'altro la nostra tecnologia e i nostri modelli sociali contribuiscono a diffonderli in modo ancor più rapido e generalizzato. Così Quammen, così una lezione da tenere a mente. Aries. We'll be right back. pandemia sta suscitando un terremoto economico e tutti ne siamo preoccupati, perché la recessione alle porte avrà effetti immediati negativi, con la perdita di posti di lavoro e difficoltà per milioni di persone. E tuttavia i governi sembrano lontani dall'intenzione di affrontare questa fase per avviare la necessaria conversione ecologica dell'economia, cioè la trasformazione delle produzioni e degli scambi in modo da tutelare l'occupazione senza cadere di nuovo nella trappola degli iperconsumi e dell'ipersfruttamento delle risorse naturali. In certi ambiti, però, il cambiamento sembra avvenire per conto proprio. È il caso del mercato delle pellicce di animali, già sotto pressione per il crescente discredito sociale dell'abbigliamento realizzato uccidendo animali. E ora questo settore è in difficoltà per gli effetti della pandemia. Essere Animali, l'associazione che da tempo conduce importanti campagne contro l'industria delle pellicce, informa che il settore sta vivendo una fase particolarmente critica, con le ultime aste internazionali di pelli grezze in evidente flessione. Alla Saga Furs, una delle aste scandinave più importanti al mondo, di proprietà dell'industria della pelliccia finlandese, che si è svolta online, le vendite si sono fermate rispetto alla disponibilità totale dei capi al 44% per le pellicce di visone, al 14% per quelle di volpe, al 9% per quelle di procione. Lo stesso sta avvenendo in altre aste analoghe. È un segnale questo che si somma alle scelte di numerose case di moda, pensiamo a Versace, Armani, Gucci, Hugo Boss, Burberry, di rinunciare alle pelli di animali a vantaggio di materiali più moderni e più civili. In Europa gli allevamenti di pellicce sono vietati o pressoché irrealizzabili a causa di normative molto restrittive in 15 stati. Il paese con maggiore produzione del continente è la Polonia, che è anche il terzo al mondo. Ebbene, anche lì si è registrata la chiusura di quasi 200 allevamenti, 40 solo nei primi due mesi del 2020, e la produzione è passata in pochi anni da 10 milioni di visoni uccise ai 5,5 attuali. La crisi di questo comparto dunque non si arresta, commenta Essere Animali, e si prevedono ancora molte chiusure anche in Polonia, dove è in corso un dibattito parlamentare per valutare il divieto di allevamento degli animali da pelliccia. Un passo, dice l'associazione, che occorrerebbe realizzare al più presto anche in Italia. E noi ci uniamo all'auspicio di Essere Animali. People say I'm cool. Cool check, baby. Every day I thank God I'm such a cool chick, baby. When I'm on the phone I thank God my voice sounds smooth and clear without a trace of. When I'm at work, I thank God. Still have that smile Ma used to say, let her take. But something inside me, something inside me died that day. Restiamo Animali nel suo slogan settimanale che ripetiamo all'inizio di ogni puntata. Si dichiara un programma animalista, antispecista e vegan, sommando in questa dichiarazione forme di attivismo, di conoscenza, di pratica concreta che cerchiamo di declinare via via attraverso le notizie, i servizi, le rubriche. A noi pare sempre importante unire lo sviluppo del pensiero critico con la pratica concreta. Perciò oggi vogliamo occuparci di una ricorrenza che ci sta a cuore, i 10 anni di Liberazioni, la rivista di critica antispecista creata appunto nel 2010 dall'associazione Oltre la Specie, fondata da un gruppo di pensatori e attivisti che ha svolto e continua a svolgere un'azione pionieristica nella esplorazione della corrente filosofica, culturale e politica chiamata antispecismo. Si tratta di una prospettiva ancora giovane e dalle molte sfaccettature. Il gruppo di Oltre la Specie, ci pare, ne propone la visione più avanzata e promettente, proprio perché esplora territori nuovi ed interseca la questione animale ad altre visioni critiche della società, e in aggiunta non ha paura di mettere in discussione anche le vecchie prassi dell'animalismo, a cominciare da una certa tendenza alla depoliticizzazione. Insomma, siamo di fronte a una elaborazione di pensiero decisamente interessante. Per celebrare i 10 anni e il suo 40° numero, Liberazioni ha dato alle stampe un'edizione speciale della rivista, con 40 diversi interventi. E vi invitiamo a cercare la rivista sul sito di Liberazioni, dove sono indicati i modi per averla. Francesca De Matteis ha intervistato per noi Massimo Filippi, professore di neurologia e a nostro avviso il più interessante pensatore antispecista del momento in Italia. Liberazioni è una rivista trimestrale di critica antispecista, uno strumento prezioso per chi si muove in ambito animalista. È uno spazio di riflessione teorica, ma anche un luogo in cui vengono esaminati e discussi i comportamenti del movimento animalista e antispecista. Liberazioni oggi tocca un traguardo importante, 40 numeri, per i suoi 10 anni di attività. E per celebrare questo importante traguardo è stato appena pubblicato appunto il numero 40 con altrettanti 40 contributi di autori e autrici. Abbiamo contattato Massimo Filippi, che si occupa di neuroscienze e di filosofia, è socio fondatore dell'Associazione Animalista Oltre la Specie e membro della redazione di Liberazioni. Ciao Massimo e benvenuto su Restiamo Animali. Il numero 40 di Liberazioni si può forse dire che tira un po' le fila di questi 10 anni. Perciò ti chiedo se sinteticamente ce ne puoi parlare, se ti va di dirci come è evoluta negli anni la rivista. Sì, beh, innanzitutto vorrei dire due parole sul numero 40. Come giustamente dicevi tu, è un numero, come dire, di festeggiamento, nonostante il periodo non favorisca questo tipo di considerazioni, però insomma il numero era stato pensato da diversi mesi e l'idea era quella di creare 40 contributi brevi da parte di voci differenti che utilizzassero anche approcci differenti e stili differenti, per cui abbiamo raccolto saggi filosofici, ma anche poesie, ma anche racconti, ma anche lavori artistici, e quindi appunto per dare un panorama ampio dell'antispecismo in Italia e nel mondo. Come è evoluta la rivista in questi 10 anni? Beh, credo che sia evoluta molto e cercando di sondare come si evolvesse anche il movimento antispecista più avanzato e più maturo. Sicuramente c'è stato un grosso impegno verso la cosiddetta teoria intersezionale nei due sensi, cioè da un lato acquisire degli strumenti teorico-pratici dal femminismo, dal transfemminismo, dall'altro lato sottolineare come anche il privilegio di specie si intersechi con altri nel costituire corpi che contano e corpi che non contano. C'è stato sicuramente uno sviluppo, già che accennavo prima, anche di aumentare la diversità dei contributi, anche con riflessioni sul cinema, l'animale, la rappresentazione degli animali nel cinema, nella letteratura, sicuramente è andato assumendo delle considerazioni sempre maggiori a fianco di riflessioni che hanno accompagnato la crescita del movimento antispecista in questi ultimi anni. Penso alla discussione su argomenti diretti e indiretti, penso al problema della carne felice, alla resistenza animale, quindi da un lato temi di intersezione con altre lotte, dall'altro l'approfondimento e la valutazione di temi che sono più vicini all'antispecismo, a fianco di un continuo rimaneggiamento della redazione, perché c'è stata una progressiva inclusione di persone differenti, con background differenti. Anche molto giovani, se mi permetti di interromperti. Certo, anche molto giovani, che hanno dato ulteriori spinte, modifiche, piegature alla rivista, insomma. Senti, poi ti volevo chiedere un'altra cosa. In un momento in cui il tema della crisi ecologica è diventato centrale nel dibattito pubblico e alla luce poi dei recenti fatti della pandemia e del coronavirus, qual è, a tuo parere, o comunque anche dal punto di vista della rivista, il contributo che può dare l'antispecismo e quali punti di contatto, se ci sono, ma immagino di sì, con l'approccio degli studiosi dell'ecologia politica? Beh, innanzitutto hai fatto bene a sottolineare il momento storico. Sicuramente l'antispecismo ci mette di fronte ad alcune riflessioni che altrimenti non saremmo in grado di fare proprio di fronte a questa pandemia, no? Dove il virus da un lato ci ha unito materialmente come unica specie, perché tutti siamo, pur con gradienti differenziali, potenzialmente attaccabili e infettabili dal virus, dall'altro lato però proprio perché il virus è in grado di umani in quanto contagiabili, dall'altro la specie umana fa parte di una rete della vita che non la rende vulnerabile. E in questo ambito vale anche per l'aspetto ecologista, proprio più a fondo dell'ecologia politica a cui accennavi, che insomma l'antispecismo ci fa capire che non siamo gli unici abitanti della Terra, che lo sfruttamento animale contribuisce a quella crisi climatica a cui accennavi da un lato, ma forse ancora più importante che gli animali subiscono la crisi climatica, e che noi continuiamo a pensare le nostre politiche ecologiche come preservare un mondo con noi, il nostro mondo, ma esiste anche un mondo senza di noi, un mondo che è nato prima di noi e può proseguire dopo di noi, e quindi in questo senso si approfondisce l'impegno ecologico, non è più solamente la difesa di qualche nicchia di sopravvivenza per la specie umana, ma la visibilità più generale del pianeta. Una domanda di routine dopo importanti traguardi come questo: come vedi i prossimi 10 anni di Liberazioni? Per i prossimi 10 anni, che auguro alla rivista di festeggiare ancora, me li prevedo 10 anni faticosi ed esaltanti. Faticosi perché è davvero una fatica portare avanti una rivista indipendente che parli di questione animale, come puoi immaginare. E dall'altro è esaltante, insomma, si vede quella crescita, quella approfondimenti di cui abbiamo parlato prima. Quindi chiuderei con questi due aggettivi: faticoso ed esaltante. This is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. Abbiamo parlato di liberazioni al plurale. Ma in questi giorni cade anche un'altra ricorrenza, la liberazione, il 25 aprile, cioè la fine della Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del nazifascismo. È una data cruciale per il nostro paese, culmine di un movimento popolare e politico che ha riscattato, almeno parzialmente, gli italiani da una tradizione di passività e di servilismo. È alla liberazione, alla festa del 25 aprile, che il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ha dedicato per questa puntata la sua rubrica etico-gastronomica. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning. Questo 75esimo anniversario della liberazione italiana dal nazifascismo, vi racconterò una ricetta tradizionale umbra che rende omaggio nel suo nome e nei colori al tricolore. Oggi più che mai la nostra resistenza è richiesta e deve farsi sentire, e che la liberazione possa manifestarsi anche nei nostri piatti, sulle nostre tavole, con cibi senza crudeltà. Gli ingredienti per 4 persone per la bandiera sono 3 peperoni verdi, 4 pomodori maturi, 2 cipolle bianche, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, del basilico, sale e pepe. Sbucciate e affettate le cipolle, quindi fatele scottare in poca acqua e quando questa sarà evaporata unite l'olio e lo spicchio di aglio tritato e fate soffriggere per qualche minuto. Quando la cipolla sarà arrosolata, unite i peperoni lavati, privati dei semi e dei filamenti bianchi e tagliati a listarelle. Lasciate cuocere per circa 10 minuti, quindi aggiungete i pomodori privati dei semi e tagliati a spicchi. Aggiustate di sale e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. A fine cottura aggiungete le foglie di basilico spezzate a mano e un filo di olio a crudo. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. if I die. Chiudiamo con una buona notizia, una delle tante a dire il vero, che arrivano dalla fauna selvatica, che sta vivendo in questa fase un momento di sollievo grazie al blocco delle attività umane dovuto al coronavirus. Un airone rosso è stato fotografato nell'area marina protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino, in Puglia. Si trovava all'interno della palude dell'oasi, attualmente deserta. Nell'immagine scattata da un addetto al monitoraggio, l'airone ha nel becco qualcosa e sta mangiando. Un dettaglio importante. Secondo quanto riferito dagli esperti del consorzio di gestione di Torre Guaceto, l'airone si è fermato nella riserva perché in questo periodo è al suo culmine la migrazione primaverile. Tutte le specie animali si stanno affrettando in questo periodo a fare rientro nei paesi di origine, nel nord Europa, per riprodursi. Ci sono i migratori a lungo raggio e quelli a breve raggio. L'airone rosso è fra questi ultimi e la costa pugliese rappresenta per lui un importante punto di sosta. Giunto nelle zone umide, spiegano gli esperti di Torre Guaceto, è importante che l'airone rosso non venga disturbato, perché alla prima avvisaglia di pericolo rigurgita quanto sta mangiando e si rimette in volo, debole e affamato. L'airone è stato fotografato con il cibo in bocca e quindi è probabile che si sia sentito tranquillo, almeno quest'anno, che non c'è tanta gente in giro. Noi auguriamo buon viaggio all'airone rosso di Torre Guaceto e speriamo che l'anno prossimo torni nuovamente in Puglia. Play of light, so peaceful at night. Pines and trees, lands and oceans. Go fast in the black light. I miss my fortune. Per questa puntata è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.